verso il voto. Un saluto agli ascoltatori e benvenuti al punto politico della giornata. Con l'avvicinarsi del voto del 13 e 14 aprile si intensificano gli appuntamenti dei leader impegnati nella sfida elettorale. Berlusconi e Veltroni sono entrambi in Campania. Il Cavaliere da Napoli, in comizio con Fini, ha annunciato che il primo consiglio dei ministri del governo, se il Popolo della Libertà vincerà le elezioni, sarà proprio nel capoluogo partenopeo. Il primo consiglio dei ministri del governo della Repubblica si terrà a Napoli. Il posto di lavoro del Presidente del Consiglio resterà a Napoli finché non sarà concretamente avviata la soluzione per il ritorno di Napoli e della Campania alla normalità. Su camorra, mafia e criminalità non accettiamo lezioni dalla sinistra, dice ancora Berlusconi. Io dico devono vergognarsi, visto che nel Consiglio regionale metà dei consiglieri sono indagati e che purtroppo la Campania ha il record dei consigli comunali che sono stati sciolti per infiltrazioni della camorra. Pur sicuro della vittoria, Berlusconi ha auspicato che il PDL raccolga un largo consenso per mettere mano da subito, con scelte anche impopolari, alle priorità del paese, da qui la necessità del voto utile. Il capitolo Alitalia, Berlusconi boccia l'ipotesi Lufthansa e ribadisce: credo che la strada migliore sia continuare con la cordata italiana. Ma di Alitalia parla anche Bossi. Alitalia sono le leggi che possono salvare Alitalia, legge per salvare le grandi imprese che abbiamo fatto noi per la Parmalat, ha salvato la Parma. Voltiamo pagina e passiamo al Partito Democratico. Come anticipato è in campagna anche Veltroni, allora facciamo il punto con Andrea Viali. Noi dobbiamo annientare la camorra, la mafia e l'andrangheta. Annientarli. Li dobbiamo sradicare dalla vita di questo paese. Vorrei dire che un candidato alla presidenza del Consiglio che non si proponga questo obiettivo non svolge fino in fondo il suo dovere. Ha scelto un luogo simbolo, una casa famiglia ospitata in una proprietà confiscata alla camorra Walter Veltroni, per rilanciare l'impegno del Partito Democratico nella lotta alla criminalità organizzata. In campagna per il suo tour elettorale, il leader del PD ha presentato un disegno di legge per rendere più efficace il contrasto delle mafie. In comizio a Caserta, Veltroni ha anche affrontato il tema rifiuti. Tutti hanno una parte di responsabilità, compreso il centro-sinistra, ma tutti ce l'hanno. Ma la responsabilità principale è nella cultura di un paese che vive di rinvii e di ideologie. E adesso invece è venuto il tempo della decisione, del pragmatismo e della capacità di risolvere i problemi quando i problemi si pongono. Anche sulla vicenda Alitalia, Veltroni ha tirato in ballo il centrodestra. Bisogna ricordare che il dossier Alitalia è stato per 5 anni sul tavolo del governo della destra e per 5 anni non è stato risolto e si sono buttati 2,5 miliardi di euro senza risolvere quel problema, e ancora oggi si cerca di impedire che si trovi una soluzione che invece è necessaria, perché in gioco ci sono i posti di lavoro di decine e decine di migliaia di persone. Le istituzioni non sono di parte ma rappresentano tutti gli italiani, ha poi replicato il leader del PD alle parole di Silvio Berlusconi. Ma veniamo alle altre forze politiche che animano la campagna elettorale. Partiamo con la sinistra arcobaleno. Penso, dice Bertinotti, che ci sia una concorrenza al centro tra il Popolo della Libertà e il Partito Democratico che costituisce una falsificazione dello scontro reale esistente nel paese, che è quello tra conservare e cambiare. Traiamo anche noi una lezione da questa esperienza, che non sono maturi i tempi per un cambiamento del governo, bisogna produrlo nella società e dall'opposizione. Per questo la sinistra arcobaleno si candida a diventare una forza di sinistra rilevante nel paese. In sintonia con Bertinotti, il socialista Boselli. Sono molto interessato al dialogo con la sinistra arcobaleno, dice Boselli, soprattutto su temi come laicità e diritti civili. Contro PD e PDL punta il dito anche Storace. Spero che non accada mai un governo tra Berlusconi e Veltroni come tutti temono, dice l'esponente della destra, per il quale ormai è chiaro che Berlusconi vincerà le elezioni, ma è altrettanto vero che avrà difficoltà a governare, dato che la maggioranza troppo stretta lo espone al rischio continuo di Bossi e di Fini. Del Popolo della Libertà parla anche Casini. Secondo l'esponente dell'Unione di Centro, la differenza rispetto alla vecchia Casa della Libertà è che questa volta Berlusconi sarà ostaggio della Lega. Sono stato col vecchio centrodestra, perché oggi credo che ci sia al posto di quel vecchio centrodestra una destra populista che ha deciso di lasciare la golden share del prossimo possibile governo, se vincerà Berlusconi, alla Lega. Infine l'ADC, sebbene archiviata l'ipotesi di un rinvio delle elezioni, Pizza è critico con il Viminale e con il ministro Amato. Verso il voto termina qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.